fare. Il mio corpo, mi giro, mi giro, mi giro, non cambia niente. Mi guardi dal muro, dappertutto la tua foto. Mi sorridi, quasi non respiro più. Non ti voglio guardare, non ti voglio chiamare, e nemmeno un messaggio respiro, solitudine. Di là c'era la tua giacca, quanto mi faceva rabbia. La tolgo, la tolgo, la tolgo, anche se non c'è più. Mi guardi dal muro, dappertutto la tua foto. Mi sorridi, quasi non respiro più. Non ti voglio guardare, non ti voglio chiamare, e nemmeno un messaggio respiro, solitudine. Solitudine. Noi ci dobbiamo solitudine.